Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Salve, benvenute e benvenuti alla nuova puntata di Restiamo Animali, la trasmissione animalista, antispecista e vegan che racconta l'attualità, lo sviluppo del pensiero, il mutamento degli stili di vita, mettendo al centro dell'attenzione gli animali non umani, nella persuasione che la vita e la qualità della vita della specie umana sul pianeta Terra potrà essere salvaguardata solo se si affermerà una visione non antropocentrica, bensì aperta a considerare dignitose e meritevoli di tutela tutte le forme di vita esistenti sul pianeta. Noi, nel nostro piccolo, cerchiamo di dare un contributo. È la puntata numero 726 e parleremo di renne natalizie, di foreste pluviali, di buone notizie in arrivo dal Sud America. La colonna sonora della puntata è curata da Gianluca Masala, la ricetta della settimana, come al solito, da Gabriele Palloni. L'anno 2023 finisce nell'inquietudine. Da un lato c'è l'angoscia per quanto sta avvenendo a Gaza, assediata e sotto le bombe da molte settimane, e nella martoriata Ucraina. Dall'altro c'è uno stato di salute del pianeta che preoccupa sempre di più, anche per l'evidente scelta compiuta dalle classi dirigenti globali di non contrastare con i cambiamenti necessari il surriscaldamento del pianeta. Sotto questo profilo, l'esito della recente riunione COP28 a Dubai è piuttosto eloquente. Il pianeta, inteso come ecosistema, è sempre più in affanno, come ben si vede per esempio in Amazzonia, un'area definita polmone verde del mondo, oggi però regione sottoposta a pressioni umane atmosferiche fortissime, e così il polmone del pianeta respira con sempre maggiore fatica. Nel 2023, secondo un recente studio del Centro di Ricerca Scientifica dell'Unione Europea, i 9 paesi che ospitano parte della foresta pluviale amazzonica hanno registrato i volumi di precipitazioni più bassi da oltre 40 anni. La pioggia scarsa, associata a temperature costantemente superiori alla media, un innalzamento che va dai 2 ai 5 gradi, e le numerose ondate di calore estremo avvenute fra agosto e settembre hanno compromesso lo stato del suolo. Nell'Amazzonia brasiliana le precipitazioni sono state inferiori alla norma, fra 100 e 350 mm, il che corrisponde a circa la metà di quanto previsto per la regione. Secondo l'ultimo bollettino sulla siccità, diffuso dal governo dello Stato brasiliano di Amazzonia, tutti i 62 comuni dello Stato rimangono in una situazione di emergenza, con oltre 630.000 persone colpite dagli effetti della siccità. L'abbassamento del livello dei fiumi produce effetti negativi in più direzioni. Gli spostamenti umani via fiume si fanno più difficili e così le condizioni di vita di piante e animali. Altra conseguenza della siccità, cresce il rischio di incendi boschivi e quindi altre fette di foresta pluviale sono destinate ad andare in fumo. Questo insieme di notizie, comparate al modesto esito politico di COP28, dà la misura della distanza, anche cognitiva, che separa le classi dirigenti del pianeta dalla realtà. I would like to sing a song for you, and I hope that you will like it too. Simple melody to remember. Loneliness is something we all know, no matter what it always seems to show. Simple melody makes it better though. Come with me and I will take you to another place where we can be together, you and me. I believe that we can most do anything as long as we can be together. I know you can make it on your own, but there's no need for you to be alone. Simple melody makes you feel so strong. Would you like to sing this song with me? Together in a perfect harmony. Simple melody makes you feel so free. Le renne sono forse l'animale più simbolico del Natale, per la classica iconografia che vede questi possenti animali del nord trainare l'improbabile slitta di Babbo Natale, carica di regali. Ma come stanno le renne? Non troppo bene, stando a un'inchiesta condotta dal quotidiano francese Libération, che ricostruisce la storia e il presente delle renne. Animali antichissimi, sopravvissuti a diverse ere glaciali, le renne si trovano in Norvegia, ma anche in Finlandia, Siberia, Groenlandia, Alaska, Canada, Russia. Climi rigidi dunque, ambienti ostili per la specie umana. Ma ora, con il surriscaldamento globale che asfissia il pianeta, molte cose stanno cambiando e anche le renne sono da considerare fra le specie in pericolo, per quanto l'evoluzione climatica produca effetti contrastanti. Nell'arcipelago delle Svalbard, a nord della Norvegia, per esempio, gli autunni più miti favoriscono in realtà le renne, la cui popolazione, per lo più selvatica, è in crescita. Ma altrove, in Nord America o in Russia, ad esempio, le renne stanno invece scomparendo. Le cause, in questo caso, sono solo in parte legate al clima. Incidono di più i cambiamenti dell'habitat, dovuti alla silvicoltura e agli sviluppi industriali, con la costruzione di strade, ferrovie e anche impianti di produzione energetica, che modificano la vegetazione. In totale, ci sono quasi 9 milioni di questi cervi dalle grandi corna sulla Terra, di cui 5 milioni vivono liberamente. Gli altri sono per lo più semi-addomesticati. Il professor Leif Egil Lo dell'Università Norwegian Institute for Life Sciences dice che con il cambiamento climatico gli autunni sono più caldi, la neve può arrivare con un mese e mezzo di ritardo, il che dà alle renne più tempo per procurarsi del buon cibo e ingrassare. Per questo in alcune zone la popolazione cresce. Ma naturalmente, continua il professore, l'aumento delle temperature porta anche a inverni più piovosi, e quando piove sul manto nevoso, il terreno si trasforma in ghiaccio e incapsula la bassa vegetazione in uno strato di oltre 20 cm. La massa corporea acquisita dalle renne durante gli autunni miti aiuta comunque a contrastare questa deprivazione legata a questi eventi ghiacciati estremi. Si tratta evidentemente di un equilibrio piuttosto instabile, perché qualsiasi aumento di un decimo di grado Celsius alle Svalbard potrebbe cambiare tutto, rovinando non solo il Natale, ma l'intero ecosistema, a danno delle magnifiche renne. Il surriscaldamento climatico, insomma, tiene sul filo milioni di animali. We'll be right back. Il 20 settembre scorso, al rifugio Cuori Liberi di Sairano, in provincia di Pavia, un blitz condotto da veterinari e forze dell'ordine portò all'uccisione di 9 maiali, ospiti del rifugio. Erano Crosta, Crusca, Pumba, Dorothy, Mercoledì, Bartolomeo, Ursula, Carolina e Spino. È stata una vicenda drammatica, come molti ascoltatori ricorderanno. Decine di attivisti hanno cercato fino all'ultimo di evitare questo epilogo, trattando con le autorità sanitarie, decise a intervenire in questo modo nell'ambito della cosiddetta emergenza peste suina e anche opponendo i propri corpi al momento dell'irruzione. È stato un fatto, quello del 20 settembre, che ha scosso nel profondo il movimento animalista e la sensibilità di molte persone, tanto che le due manifestazioni nazionali organizzate a Milano e Roma sotto lo slogan «Giù le mani dai santuari» sono state fra le più grandi come partecipazione organizzate negli ultimi anni dal movimento. Ora la vicenda potrebbe avere un seguito giudiziario, perché l'associazione Vita da Cani e la rete dei santuari di animali liberi hanno presentato una denuncia contro i veterinari e il dipartimento veterinario dell'azienda sanitaria di Pavia, accusandoli di uccisione di animali non necessaria, un reato previsto dal codice. La denuncia, ha spiegato Sara D'Angelo, portavoce della rete dei santuari e presidente di Vita da Cani, contiene i nomi di ogni singolo veterinario coinvolto, compresa la firmataria dell'abbattimento, che non era presente quel 20 settembre. Abbiamo denunciato non solo gli esecutori materiali, ma anche coloro che riteniamo i mandanti e che a oggi occupano le cariche più importanti nella dirigenza veterinaria della regione Lombardia e per quanto riguarda la gestione della peste suina africana. Seguiremo gli eventuali sviluppi di questa denuncia. Una piccola buona notizia arriva dal Cile, dove il Senato ha approvato all'unanimità una legge che vieta la sperimentazione animale per la produzione di cosmetici, nonché l'importazione nel paese di prodotti e ingredienti cosmetici testati su animali. L'approvazione della legge arriva al culmine di una campagna che ha avuto un grande slancio sui social media. Attualmente sono 44 i paesi che hanno vietato la sperimentazione animale per la produzione di cosmetici, fra cui l'India, Taiwan, Nuova Zelanda, la Corea del Sud, la Turchia, Israele, Norvegia, Islanda, Svizzera, più alcuni stati degli Stati Uniti e del Brasile. Come sappiamo, questo divieto relativo ai cosmetici è per il movimento animalista un primo passo verso l'esclusione della sperimentazione animale da tutta la ricerca scientifica. Obiettivo questo ben più difficile, sia per la contrarietà di gran parte della classe medica e scientifica, sia perché nel senso comune l'uso degli animali è giustificato dagli scopi scientifici e farmaceutici a beneficio delle persone umane. Si tratta, come sappiamo, di una lotta culturale, sociale, politica di lunga lena, ma che ha già ottenuto importanti risultati, anche nel nostro paese, dove la ricerca scientifica senza test sugli animali sta avendo interessanti sviluppi. Proprio al Cile si ispira la ricetta della settimana pensata per noi da Gabriele Palloni, tosco vegan chef, autore, fra gli altri, del libro Se vuoi essere sano, cucina vegano, edito da Newton Compton. Il pasto gentile è un frigorifero senza crudeltà. Se per la ricetta di Natale vi ho suggerito un dolce tipico inglese, a Capodanno vi racconterò come servire le tradizionali lenticchie rivisitando un piatto tradizionale della cucina cilena. Il pastel de choclo. Gli ingredienti per 4 persone sono 400 g di mais dolce in chicchi, 300 g di lenticchie verdi secche, 200 ml di latte di soia, 2 cipolle, 2 cucchiai di olive nere denocciolate, del cumino in polvere, del brodo vegetale, un cucchiaio di zucchero di canna, del basilico, olio extravergine di oliva, sale e pepe nero. Lasciate le lenticchie verdi in ammollo almeno 4 ore, meglio se tutta la notte. Scolatele e tritatele col mixer ancora crude, aggiungendo solo se necessario poca acqua. Dovranno essere tritate ma non troppo. Sbucciate e tritate le cipolle e fatele scottare in una casseruola con poca acqua. Quando questa sarà ritirata, aggiungete 2 cucchiai di olio extravergine e fate rosolare qualche minuto. Unite le lenticchie, tritate e fate cuocere ancora 5 minuti a fuoco medio, mescolando di tanto in tanto. Aggiungete il cumino, aggiustate di sale e pepe e coprite col brodo vegetale. Lasciate cuocere a fuoco basso per circa 20 minuti col coperchio. A parte frullate il mais assieme al latte vegetale e a qualche foglia di basilico. Emulsionate fino ad ottenere un composto omogeneo. Versate questa crema di mais in una casseruola antiaderente assieme a 2 cucchiai di olio extravergine, sale e pepe. Fate addensare a fuoco basso mescolando per circa 10 minuti. Disponete le lenticchie sul fondo di una pirofila, aggiungete le olive nere e coprite il tutto con la crema di mais. Spolverate con un cucchiaino di zucchero di canna e fate cuocere in forno statico per 10 minuti a 200 gradi. Poi lasciate solo il grill e portate a doratura della superficie. Sfornate e lasciate intiepidire qualche minuto prima di servire. Recuerdos de una noche venturosa que vuelve de mi alma a florecer. Recuerdos que se fueron con el tiempo. Presiento que reviven otra vez. Igual que aquella noche tan lejana. Es esa de mi amarga soledad. La luna sobre el cielo azul me alumbra como otra blanca luna que ya nunca veré más. Si quieres olvidarme, déjame. Dijiste la mañana que partí. Tú sabes que te quiero, te queré. Y tú sos el cariño que te di. A nadie quise tanto como a ti. Mi amante, te ofrecí mi corazón. Yo sé que para siempre te ha perdido mi alma, ya que todo ha sido solo una ilusión. Así me reprochaba sin saber que yo compadecía tu dolor. Que cuando me ofreciste tu querer, yo estaba enamorada de otro amor. Comprendes el porqué de mi partir. Comprendes mi amargura en el adiós. Acaso con los años me hayas olvidado, pero nunca yo. Noche tan lejana, es esta de mi amarga soledad. La luna sobre el cielo azul me alumbra como otra blanca luna que ya nunca veré más. Si quieres olvidarme, déjame. Dijiste la mañana que partí. Que sabes que te quiero, te queré. Y tú sos el cariño que te di. A nadie quise tanto como a ti. Mi amante, te ofrecí mi corazón. Yo sé que para siempre te ha perdido mi alma. Yo que todo ha sido solo una ilusión. Así me reprochaba sin saber que yo compadecía tu dolor. Que cuando me ofreciste tu querer, yo estaba enamorada de otro amor. Comprendes el porqué de mi partir. Comprendes mi amargura en el adiós. Acaso con los años me hayas olvidado, pero nunca yo. Acaso con los años me hayas olvidado, pero nunca yo. A proposito di alimentazione, se qualcuno avesse ancora dei dubbi sugli effetti per la salute di un'alimentazione esclusivamente vegetale, può leggersi sul sito di Il Post un articolo sulla curiosa ricerca condotta negli Stati Uniti su 22 coppie di gemelli omozigoti, cioè identici geneticamente. L'esperimento è stato guidato da un gruppo di 14 ricercatori e ricercatrici dei dipartimenti di medicina, microbiologia e immunologia della Stanford University in California. Ciascuna coppia ha seguito per 8 settimane una dieta sana, a base di cereali, frutta e verdura, ma differenziata fra i due fratelli e le due sorelle. Una integrava anche alimenti di origine animale e l'altra no. I risultati dello studio, pubblicato sulla rivista scientifica JAMA, hanno mostrato un miglioramento dei valori relativi alla salute cardiovascolare maggiore nell'individuo di ciascuna coppia che aveva seguito la dieta vegana, e anche livelli significativamente più bassi di colesterolo LDL, il cosiddetto colesterolo cattivo, cioè le particelle che in quantità eccessive tendono a depositarsi sulla parete delle arterie. I gemelli che hanno seguito la dieta vegana hanno anche migliorato i loro livelli di insulina a digiuno e hanno perso più peso rispetto al proprio fratello gemello o alla propria sorella gemella. Go vegan, dunque! Everyone is trying to get to the bar. Name of the bar, is called heaven. The band in heaven, they play my favorite song. Play it one more time, play it all night long. Oh, heaven, heaven is the place, a place where nothing, nothing ever happens. Heaven, heaven is a place, a place where there is a party, everyone is there, everyone will leave at exactly the same time. When this party's over, it will start again, will not be any different, exactly the same. Oh, heaven, heaven is a place where nothing, nothing ever happens. When this kiss is over, it will start again. Not be any different, would be exactly the same. It's hard to imagine that nothing at all could be so exciting, could be this much fun. Una bella storia ancora in divenire ci giunge dal Messico. La riprendiamo dal sito del settimanale Internazionale, in un articolo firmato Camilla Desideri. È la storia di Pompeio, un giovane lamantino, animale acquatico della famiglia dei trichechi. Pompeio, 2 anni fa, nell'agosto del 21, fu visto da un gruppo di persone mentre nuotava da solo, pur piccolissimo, nato da poche settimane, nelle acque della Laguna Milagros, nello stato di Quintana Roo, nel sud-est del Messico. Le persone si presero cura di lui, lo guidarono verso uno specchio d'acqua protetto, nella speranza che la madre lo raggiungesse al più presto. Cosa che però non avvenne. Perciò, dopo poco tempo, fu chiesto l'intervento della Red de Varamientos de Mamíferos Marinos dello Stato messicano, un'organizzazione, spiega l'articolo di Internazionale, formata da cittadini, accademici e rappresentanti delle autorità che si occupa di dare assistenza ai mammiferi. Il cucciolo di lamantino era disidratato e leggermente anemico, ma grazie alle cure specialistiche si riprese in pochi giorni e fu subito chiamato Pompeio, in onore di Otón Pompeyo Blanco, un biologo marino messicano molto conosciuto, fondatore della città di Chetumal. Quando Pompeio è cresciuto si è posto il problema di restituirgli la piena libertà e di renderlo anche autonomo per le sue esigenze quotidiane, visto che nel primo anno di vita era stato alimentato con latte in bottiglia ogni 3 ore. Poi nell'ottobre del 2022 la sua alimentazione è cambiata ed è stato nutrito con la vegetazione della laguna, recuperata grazie all'impegno di tanti volontari, i quali volontari col tempo sono riusciti a insegnare a Pompeio a mangiare da solo le alghe dal fondale. È bello vedere che ha imparato a mangiare sott'acqua, senza risalire in superficie, ha raccontato la biologa Natalie Castelblanco Martinez. Rimesso in forze e reso più autonomo, è stato allora portato nella baia di Chetumal, in un'area naturale protetta per i lamantini, dove è arrivato caricato su una barella di tela pensata per trasportare 8 persone. Con tutte le dovute attenzioni, Pompeio è stato messo in acqua. Ad aspettarlo c'era Daniel, un altro lamantino soccorso e riabilitato dallo stesso gruppo 20 anni prima, quindi un fratello maggiore, che ha potuto dare sostegno a Pompeio. sulla cui coda è stato applicato un piccolo apparecchio che permette ai tecnici di monitorare i suoi spostamenti, in modo da poter verificare il suo percorso di adattamento alla vita libera ed eventualmente di intervenire in suo aiuto. È una storia bella di collaborazione fra specie e anche di lotta contro l'estinzione, perché va ricordato che il lamantino antillano è considerato una specie in pericolo di estinzione nella sua area di distribuzione in Messico, a causa anche qui dell'impatto del turismo, del peggioramento del suo habitat naturale, dell'uso di fertilizzanti e prodotti agrochimici da parte delle industrie locali. In un quadro così desolante, la storia di Pompeio apre almeno un varco alla speranza di un cambiamento. Chiudiamo con una notizia che arriva dal Parlamento italiano, dove è stata approvata in prima lettura al Senato, durante la discussione del bilancio dello Stato, l'istituzione di un fondo per aiutare persone over 65 su spese e prestazioni veterinarie. Si tratta dell'attuazione di una storica richiesta avanzata dalle organizzazioni animaliste. Per alimentare il fondo è stato disposto uno stanziamento pari a 250.000 euro per ogni anno fra 2024 e 2026. Non si tratta, come si vede, di grandi cifre, ma il provvedimento va nella direzione di considerare gli animali di casa come parte effettiva della famiglia. Secondo la norma, al beneficio potranno accedere i proprietari degli animali d'affezione che abbiano un valore dell'ISEE inferiore a 16.215 euro e un'età superiore a 65 anni. Come precisa l'AV nel riportare la notizia, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge, con decreto del Ministero della Salute, di concerto con quelli dell'Economia e delle Finanze, saranno indicati i criteri di ripartizione delle risorse e i requisiti e soprattutto le modalità di accesso. Per questa settimana è tutto, vi saluta la redazione di Restiamo Animali, composta da Camilla Lattanzi, Roberta Marino, Zenone Sovilla, Gianni Ferrarotti, Gabriele Palloni, Gianluca Masala e Lorenzo Guadagnucci, che vi parla. L'appuntamento con Restiamo Animali è fra una settimana esatta, stessa ora, stesse onde. Restiamo Animali. Restiamo Animali. Restiamo Animali. Restiamo Animali. Restiamo Animali. Restiamo Animali. Restiamo Animali. Restiamo Animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.